next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Buongiorno America. Che cosa avrei dovuto dire in conclusione a quei giovani americani che, stravolti dalla noia di avermi seguito e dal timore di essersi innamorati del paese e della gente sbagliati, mi guardavano, aspettandosi una risposta da portare a casa e da scrivere nelle loro tesine di fine corso. Non potevo concludere con un happy ending, rivelando loro che questi 150 anni di storia politica degli italiani avevano o avrebbero finalmente distillato un carattere nazionale unitario, e che, nascosta dietro il sipario della storia, viveva, non si capisce bene dove, la vera Italia invocata dai retori, molto migliore di chi la rappresenta e la racconta, ma che poi, chissà per quale maledizione, esprime pubblicamente sempre il peggio di sé. Voi, al mio posto, avreste potuto dire che oggi, alla fine della prima decade del nuovo millennio, l'identità collettiva è più robusta e ben temperata, che il respiro fisiologico di maggioranza e opposizione è divenuto regolare, che nord e sud sono più vicini e omogenei, che quelle mafie, 'ndrine, camorre, cose nostre assortite che generano almeno 130 miliardi di euro di fatturato annuo e che reggono, secondo le ricerche più serie, il 70% dell'economia nel sud italiano, e ormai una parte importante anche di quella del nord, sono un buon auspicio per il futuro? Che un governo, il quale definisce anti-italiani tutti coloro che lo criticano, è sulla strada giusta per formare l'italianità matura di cittadini adulti, liberi di opporsi, di fare domande, di risentire e di acconsentire, senza per questo essere chiamati servi o farabutti? Sorry, non avrei potuto farlo. Bene, vi ricordo che stiamo tenendo una breve conversazione con Vittorio Zucconi, che ci presenta il caratteraccio Come non si diventa italiani, il volume nuovissimo mandato in libreria da Mondadori, in cui riassume l'esperienza di un corso di lezioni in un college americano, a provare, un compito impossibile, a provare a spiegare l'Italia, soprattutto l'Italia di oggi. E Vittorio, anche alcuni suoi protagonisti, ci puoi raccontare quando è venuto il momento, insomma, di spiegare Berlusconi, vita, morte, miracoli, come si dice, come l'hai messa, come l'hai affrontata? Perché poi tu nel libro racconti di un tardivo ripensamento, insomma, di aver fatto un corso a due velocità, prima cattivo, quasi spietato nei confronti del paese da cui provenivi, poi alla fine hai avuto l'agnizione dell'ultimo momento, il Satori, hai detto ma forse ho esagerato. Certo, esagerato, perché mi ero reso conto che avevo fatto appunto la parte del cattivo, no? Cioè uno che raccontava, come uno che racconta soltanto delle malattie di un corpo e dice che nessuno è mai sano. E di fronte al fenomeno Berlusconi io ho cercato di non, naturalmente in un corso universitario così non ti puoi mettere a fare polemiche politiche, però certo ho dovuto spiegare Berlusconi come un prodotto tipico del nostro modo di essere. Cioè in fondo qualcuno che ha proposto agli italiani una fuga in avanti, la fuga verso il sogno. Io racconto della invenzione della televisione come strumento di conquista politica. L'Italia è il primo caso dove la politica non si serve della televisione, ma è la televisione che si serve della politica per diventare, nella figura di Berlusconi, che questi studenti trovano anche affascinante. Lo trovano molto italiano, ecco. Allora io non so mai se quando mi dicono ma Berlusconi è typically Italian, ecco, se mi devo arrabbiare o se devo dire sì, avete ragione. Domanda difficilissima, Berlusconi è typically Italian. Sì, domanda difficilissima, però poi alla fine io aggiungo anche a questo libro alcune delle tesi, certo, che loro hanno scritto, e sono stati loro a confortarmi, cioè a dirmi ma guardi professore, non siete poi così male, non siete poi così cattivi, così di malumore. Anzi, si direbbe che i loro interventi che pubblichi nell'epilogo del libro sono, come dire, una specie, no, ritrovata serenità dopo la tempesta, dopo l'esperienza. Loro sono ancora innamorati dell'Italia, si direbbe. C'è una frase bellissima di una ragazza, era una signora già matura, perché lì ci sono persone, sai che in America si torna a scuola anche a 30, 40, 50 anni, il rapporto con l'istruzione è continuo per chi vuole andare avanti nella vita e magari passare da insegnare al liceo all'università, occorre un dottorato, non basta più la laurea. E una di queste, io alle quali chiesi ma adesso mi vergogno, vi ho raccontato di un'Italia che forse eccessivamente cattiva, perché i giornalisti in genere raccontano le cattive notizie, questo è il nostro mestiere. E lei mi rispose con quel delizioso accento che hanno loro, dice guardi professore, non si preoccupi, non si preoccupi, noi prima tutti eravamo innamorati di una fantasy, di una fantasia chiamata Italia, adesso siamo innamorati di una realtà chiamata Italia. E questo di solito è l'amore che dura, no? Come quando ci si sposa, poi scopri che la moglie o il marito qualche difettuccio ce l'ha, però comunque lo ami, ecco. Quindi questo è il regalo che loro mi hanno fatto. Vogliamo bene all'Italia nonostante quello che lei ci ha raccontato dell'Italia. Per concludere, c'è un tema che affiora in modo particolarmente interessante, perché anche questo è un po' bipolare, no? nel presente o nel passato prossimo italiano e americano, il tema del razzismo. Tu racconti a un certo punto un piccolo pezzo di biografia, l'arrivo a Torino, in una Torino in quel momento terrorizzata dai terroni, dai meridionali, però al tempo stesso bisognosa naturalmente della manodopera. L'America di tutto ciò conosce la regola fin troppo bene, proprio nei suoi cromosomi. E poi tu guardi anche al futuro, a un'Italia che a sua volta può aver bisogno proprio di quello, no? di un superamento, di una vittoria netta, totale sulla concezione del razzismo, proprio per trovare invece forza, sangue da cui ripartire, energie possibili, slancio. c'è una comunità in questo, nelle due esperienze? Assolutamente, qui c'è una, si tocca una corda che è naturalmente nel profondo del cuore di ogni americano, perché le persone che hai di fronte in qualunque ambiente sono persone che vengono da tutto il mondo, no? I loro antenati venivano da chissà quale posto, molti sono italoamericani, altri sono di origine asiatica, tedesca, ebrei dell'Europa orientale, insomma tutti qua. E allora io cerco di spiegare quale sia stato di dramma, lo shock di un paese di emigrazione come il nostro, che praticamente all'inizio degli anni 90 si è scoperto che le carte si erano completamente girate, che era un paese di immigrazione. È un po' come già era accaduto con la Torino, che doveva produrre le 500, le 600 e che deve risolvere questo problema, e lo sta affrontando in fondo con gli stessi problemi, gli stessi atteggiamenti, gli stessi scatti di nervi che gli americani conoscono bene e che hanno fatto anche loro tanta fatica a superare. Quindi, dico, vedete, siamo in fondo molto meno diversi da voi di come anche noi ci credessimo. Gli italiani un tempo mi dicevano: ah, ma in America come siete razzisti? Io dicevo: sì, aspettate però di avere delle altre razze in Italia per vedere come vi comporterete voi. E quando sono arrivate tutte insieme, in un decennio, pensa, in un decennio, l'immigrazione in America dura da 3 secoli, certo. Però in 10 anni ci siamo trovati di fronte a persone sconosciute, a stranieri, alien, come si dice in linguaggio americano, l'alieno, sì, sì. E dobbiamo veramente digerire, metabolizzare questo problema. E loro dicono: ma voi ci riuscirete meglio di noi, perché in fondo dentro gli italiani c'è il DNA di tutte le razze, anche quando non vogliamo dirlo. Ed è vero, poi noi siamo, io uso un'immagine, un italiano nel suo DNA è come uno scatolone dove stanno tutti i pezzi dell'ego, non faccio pubblicità a una nota ditta, ma hai capito? Sì, sì. Dell'ego di tutto il mondo, non c'è frammento di DNA umano che non sia contenuto in un italiano. E questo dovrebbe aiutarci, sì, ci spaventa all'inizio, però dovrebbe aiutarci. Bene, questo è il caratteraccio, come non si diventa italiani, un saggio di Vittorio Zucconi attraverso una serie di storie, 10 storie raccontate al suo tempo agli studenti di un college americano e messi con quel punto di vista, con quella ambientazione, messi in reazione, poi naturalmente sul ragionare su quello che siamo. Ti ringrazio Vittorio e a presto di sentirci. Ringrazio voi, a presto. Allora, ringraziamo Vittorio Zucconi, questo suo intervento che completa una serie di conversazioni con quei corrispondenti che poi insomma restano gli interlocutori più frequenti e anche più utili al nostro programma, programma che a questo punto naturalmente con piacere, ma anche come dire, con tutta la sollecitudine e l'affetto possibile vi augura un buon anno, una felice fine d'anno e naturalmente qui da Radio 24, a nome anche della quale naturalmente vi rinnoviamo i nostri migliori auguri per un sereno 2010. Ci sentiamo l'anno prossimo. Grazie.